slick chick. She, a neat chick. She's what makes me tick. Mama, hey, hey, hey, hey. Clickety click, a slick chick. Hey, hey. The high heels on for the baby blues hat. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Man, oh man, what a sack. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Purple lipstick for the very first time. Man, oh man, yeah, yeah, yeah. It was a night. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Everybody stopped, we're on a dime to look. Even my heart, my heart got a shook. She's my clickety click a stitch. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, oh, I got a stitch. She's a neat trick. But see what I make me tick. Mama. Clickety click a stick chick. Yeah, don't you know she's a stick. Mama a stick a chick. Ah yeah. Yeah. A stick chick. Mama. Clickety click a stick chick. generate a lot of heat. A 52nd Street. Oh, oh. A 52nd Street. We're gonna have a little soul parade. Before they know the second bar was played, we're gonna slip it to them short and sweet on 52nd Street. Ritrovati e ben ritrovate a una nuova puntata di Slick Chick su Radio Wombat. Come sempre sono le 21:17 del, oddio che giorno è che non me lo ricordo mai, il 29 mercoledì 29 novembre, direi che è, sì, si può ufficialmente dire che è l'ultima puntata di Slick Chick di questo novembre del 2018, non vi preoccupate, intendevo solo del mese. E qui con me in studio ai nostri microfoni wombattosi ho un ospite che i più accorti di voi avranno riconosciuto, un habitué di questi microfoni in realtà, anche se non proprio di questa trasmissione, ma secondo me sarà la prima di una lunga serie di collaborazioni, ovvero speriamo, Dalai Lama. Dalai Lama. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Che in questo caso sono venuto a rompervi i coglioni, non solo il fine settimana, ma anche infrasettimana. Qui ci allarghiamo per non farvi lasciare niente. Ah certo, sennò poi sentono nostalgia. E durante la settimana che si fa? È vero che ci sono le repliche. Potrebbero riascoltarsi i podcast. Infatti, mettetevi in pari, perché io lo so che voi non le riascoltate tutte. E invece vi perdete le gran perle. Ma noi invece ve le riproponiamo e vi teniamo compagnia anche questo mercoledì piovoso, freddo, un po' meno freddo di ieri almeno, ma non buttiamoci a parlare del tempo, perché sennò si iniziano le lamentazioni come vecchie e non finiamo più. Ma questo mercoledì ho invitato qui il nostro meraviglioso Dalai Lama per approfondire un tema un po' bizzarro, un tema che in realtà parte, come abitudine di questa trasmissione, da un dettaglio abbastanza minimale e poi però in realtà indagare, cioè usarlo come scusa per indagare un argomento ben più vasto. In questo caso partiamo da una strada di una città proprio piccola, un paesino. Sì, un paesotto sperduto. Una viuzza, così, che però ha visto di tutto, ne ha viste di cotte e di crude. Del gran divertimento, direi, e non solo. Esatto, in realtà forse qualcuno, anche qui, no? Cioè, perché io so che oltre ai biografi c'è gente che sta lì a puntarsi, a fare gare, ma di cosa parleranno oggi? Forse i più attenti avranno già capito che parliamo della 52esima strada di New York, e là fanno questa cosa che le nominano con i numeri. Non si vogliano sbattere tanto. No. Fare differenze, nominiamola a lui invece nominiamola a un altro. 52, 53, 1, 2. E non c'è menate, sono a Corso Cavour. Ovest, est. Infatti. Sono molto pratici gli americani, eh? Sono pratici, tra l'altro dividono tutto in blocchi, è tutto squadrato. Noi ci siamo guardati per preparare questa puntata, tutte le mappette, tutte le cose. Tra l'altro discutevamo prima a microfoni spenti del fatto che noi, nella nostra povera ingenuità di wombat, poveri ingenui, piccoli wombattini cresciuti in Australia, in un paesino dell'Australia, e non sappiamo come va il mondo, non sapevamo, cioè ci immaginavamo delle proporzioni sì un po' grandine, pensavano di guardare la mappa della fattoria spersa nel niente australiano, invece no, piccini, che illusi. No, ci siamo a un certo punto resi conto che le dimensioni sono enormi, per cui si inizia a parlare di Broadway, di Harlem, di Greenwich Village, roba che te hai sentito essenzialmente nei film, perché noi la cultura nostra ma, è telefilm, ma che quantomeno ti immaginavi fossero a distanze belle grandi tra di loro, visto che ad esempio, che ne so, Harlem al tempo era uno dei ghetti neri, anche se era la strada del divertimento, e nella mappa vedi Broadway comunque. E dici, ma come? L'altra parallela è Broadway Street. Oppure all'altro lato della mappa vedi il Rockefeller Center, che nel mio immaginario newyorkese è un edificio nel pieno centro, nella piena downtown newyorkese. E pensi che quello che allora era un ghetto nero non dovesse stare proprio nel centro di una città. Sembrava brutto, insomma. Invece no, invece era tutto così. Ci siamo resi conto che le proporzioni forse piccoli ingenui sono un po' diverse. No, infatti, effettivamente non è così, non siamo a Sesto Fiorentino, in effetti è tutto un po' più grande, però oltre a essere grandi come dimensioni geografiche, sì, di fatto pensavo fosse la cartina del Neto. Vero? Perché poi ci assomiglia, sta squadrata o la ferrovia, però no, invece no. E quindi in realtà ci siamo resi conto che oltre ad essere appunto grandi per dimensioni geografiche, è anche stato un coacervo di 2000 robe, perché insomma poi avremo modo di narrarlo in tutti i dettagli, o perlomeno gran parte. È stato sicuramente una delle culle del jazz, dello swing, del bebop, un po' di tutto, ma tra l'altro anche del musical, fra l'altro, perché appunto si diceva il Broadway era uno sputo, era lì, e quindi grandi cose sono nate a Broadway, vedremo, ma sono nate in realtà nella 52esima, e quindi tutto lì era, se te ti sedevi in un angolo lì, probabilmente vedi passa di tutto, insomma. Sì, se ci capitavi magari tra metà degli anni 30 e metà degli anni 50, sicuramente avresti visto passare, penso, un bel pezzo di storia della musica. Sì, secondo me succedeva di tutto, tipo Charlie Parker che ti faceva il portafoglio, oddio, cioè tutto, sì, succedeva, sì, ogni, sì, bene. O che ti voleva vendere il sassofono, magari. Esatto, e te lo compravi, perché come facevi? Assolutamente. E diventai miliardario poi, vabbè. Ma queste sono altre storie. Quindi, allora, il primo pezzo che vi abbiamo fatto sentire da introduzione subito dopo la sigla era Billy Joel con un, direi, didascalico 52nd Street, che poi è in realtà il titolo dell'intero disco che Billy Joel ha dedicato a questa strada. E fra l'altro, nota di colore, è il primo disco in assoluto inciso in CD. Cioè, su supporto compact disc, come si diceva negli anni 90. È stato il primo a essere pubblicato. Se, pare che se la siano giocata sul filo del rasoio con gli ABBA. Cioè, proprio. Però alla fine ha vinto. Ormai a fine carriera, però. Sì, sì, in realtà sì. E però in realtà poi ha vinto Billy Joel ed è stato inciso ovviamente in Giappone, che ebbe tempi che furono per il toyotismo, eccetera, cioè il Giappone era all'avanguardia. Il primo CD di musica che è stato pubblicato pare sia stato questo qui. Quindi vabbè, non è che sia molto interessante, ma tant'è. Però questo era un po' un incipit. Oggi spazzeremo tra i generi musicali come sempre, ma in realtà ci concentreremo molto su poi l'anima di questa strada, ovvero quella un po' più nera. E quindi arriviamo già a una roba che proprio già marchiamo il territorio subito. Sì, facciamo vedere che siamo dei figli. Facciamo capire subito dove andiamo a parare. E tra l'altro, uno dei tanti soprannomi che ha avuto la 52esima strada è appunto The Streets, proprio, certo, con l'articolo La strada. Oh, oltre a essere la strada dello swing, la strada del bebop, la strada di quello che vuoi, era anche proprio semplicemente la strada, perché in quel periodo era proprio là che succedevano le cose, quantomeno a livello musicale. Infatti è stato proprio il luogo dove è avvenuto il passaggio tra lo swing e il bebop, che fanno sempre parte, sono sempre all'interno dell'universo del jazz, però diciamo che c'è uno spartiacque. È stata un po' una rivoluzione. Due generi. Sì, sì, certo. È stato proprio un cambiamento proprio nel tipo di musica. E visto che il primo pezzo che vi abbiamo fatto sentire era appunto la 52esima strada di Billy Joel, mi sembrava giusto anche far sentire 52nd Street Theme, che è uno standard di Thelonious Monk, ovviamente poi diventato standard, e essendo qua in qualità di ospite è un pezzo che in una serata di Tonight Alive vi ho già fatto sentire. Ricordatevelo, per favore. Ricordatevelo, è stata una puntata bellissima sul The Quintet, che è appunto il quintetto che suonerà questo tema della 52esima strada di Monk. E il The Quintet, perché il The Quintet? Perché era proprio il quintetto, come se fosse l'all star team del bebop, cioè le più grandi stelle del genere bebop erano in quel quintetto, ovvero Charlie Parker al sax alto, Charlie Mingus al contrabbasso, Max Roach alla batteria, Dizzy Gillespie alla tromba e Bud Powell al piano. E ovviamente questo era, in questo caso, il concerto è il famosissimo concerto alla Massey Hall di Toronto del 15 maggio del 1953, che già vi ho decantato nella famosa puntata. Eh sì, e poi tra l'altro il bebop ci sarebbe da parlarne all'infinito, perché tra l'altro era un po', è stato credo più o meno insomma anche il modo degli afroamericani di riprendersi un po' il jazz che era stato assolutamente sporcato. Il bebop è nato come, diciamo, proprio atto sovversivo nei confronti dei bianchi che si erano impossessati e avevano fatto successo con lo swing. Lo swing era stato inventato dai neri. Tutto quello che è stato detto di innovativo nello swing l'hanno inventato i neri, però il successo è arrivato solo per le grandi orchestre bianche. Certo, Benny Goodman e tutti gli altri, Paul Whitman. Whitman certamente, tutti gli altri che invece, poi in realtà per carità, ora nel senso poi avevano dei grandissimi meriti pure loro, io adoro anche Benny Goodman, però a livello sociale, politico e quant'altro. Già Benny Goodman rispetto a Whitman era già ancora diverso, perché esatto. Goodman era molto più originale, ecco, era molto più rispettoso, diciamo, di quello che stava suonando. Era molto più nero. Esatto. Sì, infatti Goodman era così e comunque sia di fatto venne in qualche modo anche usato, cioè magari non proprio lo stesso Goodman, però in generale a un certo punto si preferì lavare il jazz, lo swing prima ancora in qualche maniera e dargli, anche perché insomma di fatto i bianchi americani non supportavano l'idea che gli afroamericani sapessero fare qualcosa meglio di loro o che non l'hanno mai accettato. Sì, era una roba che all'inizio andavano a vedere come si trattasse un po' di andare a vedere le scimmie al circo, poi si sono resi conto di cosa avevano per le mani. Per tantissimo tempo è continuato a succedere, infatti vedremo poi anche dopo qual era la situazione di questa allegra 52esima strada, ma che in verità in fondo era allegra solo magari per gli spettatori bianchi, ecco. Sì, che erano lì a divertirsi, ma in realtà... E appunto questa nascita del bebop nasce come reazione dei musicisti neri che vedevano rubarsi la loro musica e loro, finiti i loro show sulla 52esima, all'inizio si ritrovavano nelle after hours, è nato lì. Davvero? Erano a fare, cioè, per dire che comunque lo facevano dopo l'orario di lavoro, si ritrovavano in queste famose jam session, specialmente all'inizio al Minton's Playhouse, che non è nella 52esima strada propriamente, però rientra ideologicamente nella 52esima strada, perché il Minton's Playhouse era al Greenwich Village. Però i grandi solisti si ritrovavano lì e andavano a suonare questa musica, che quando la andavano a sentire i bianchi per rubare l'idea ai musicisti neri non ci capivano niente, perché ricordiamoci che lo swing, anche se fa parte della grande famiglia del jazz, scusate, è comunque una musica praticamente tutta scritta, mentre il bebop comincia a avere già diverse parti improvvisate. Nello swing solitamente è un tema che seguono sulla partitura e tutti fanno la loro parte, poi il solista di turno fa il suo assolo con il suo strumento, che comunque aveva delle grosse limitazioni a questa sua improvvisazione, e poi ritornava il tema della composizione. Invece il bebop per la prima volta ha delle parti completamente lasciate in bianco, libera, e poi inoltre musicisti. Il bebop è il primo genere che poi darà modo anche a tutti gli altri strumenti, non solo quelli solisti, di fare i loro assoli. Eh sì. E con l'evoluzione del bebop le parti non scritte poi con l'andare avanti degli anni saranno sempre più saranno sempre più allargate, sempre di più, fino ad arrivare alla rivoluzione del free, che praticamente di scritto non avrà più niente e sarà quasi solo improvvisazione pura. Come dice la parola. Esatto. Sì, tra l'altro appunto il bebop ora appunto se ne potrebbe parlare all'infinito, ma vi dobbiamo far sentire un po' di musica, sennò poi vi annoiate. E io però vi voglio consigliare, se non lo conoscete già, una cosa curiosa, che è l'approccio bebop alla scrittura di Jack Kerouac. Oh, beh. Che se non l'avete mai letto, fatelo assolutamente. Ovviamente Beat Generation e tutti i poeti della Beat Generation sono assolutamente legati al bebop. Che Bianchi Sima in Fatto di Libertà ne sapevano. Esatto. E quindi sì, è un libro bellissimo che applica poi di fatto lo spirito del bebop, di questa nota stonata che a un certo punto compare all'improvviso ti spiazza, nella scrittura, e quindi e lì si apre un mondo, diciamo. Quindi leggetevelo se non l'avete fatto, vi aprirà, spero, degli orizzonti. In questo caso improvvisazione letterale. Eh sì. Era come i poeti beat e le loro poesie... Tutto aveva un collegamento fra le varie arti in un momento di fermento creativo. Com'è quando si fanno le cose seriamente. Esatto. Ebbene sì, e quindi ora ci ascoltiamo allora... 50 Second Street Theme del The Quintet, esatto. Al Massey Hall, 1953. Thank you. applausi. Entusiasmo della Marseille. Applausi, applausi, ma che bello, ma che bello. Noi avremmo voluto esserci, ma ahimè, niente. Non ci è toccato manco questo. Così io c'ho giusto il live di Ligabue quando avevo 12 anni, mi sono fissa. Direi non tiriamo fuori questi scheletri dall'armadio. Sì, no, ma senza pudore, cioè, tanto voglio dire, cioè, il resto, poi per Carlos Dunga, certo, un sacco di volte. No, lì ho un altro paio di maniche, però, Sì, sì, no, quello a bestia, poi non lo so chi ha gli Spettro, potrei tirare fuori un sacco di nomi. In Abbat? In Abbat quando ero molto piccola, ma mio babbo è venuto a prendermi troppo presto, il concerto ancora non era iniziato. No, è stata una tragedia, guarda, non parliamo di Abbat. E poi entra i due della nostra trasmissione Skin e mi picchiano perché arriva Granejo e ci legna. Che ho potuto vedere in Abbat quando potevo, vabbè, ma lasciamo fare. Però ho visto i Fugazzi, questo. Vabbè. Sì, almeno questo. Vabbè, però, certo. Vabbè, Nabat per Fugazzi ci si può stare. Direi. Guarda, quasi. Decisamente. Direi. Non glielo diciamo, ma no. Io sono contenta così. Speriamo che non ci ascolti. No. Però, vabbè, e qui comunque si tratta di essenzialmente un enorme lungo rimpianto questa trasmissione, perché sono tutti live, ma d'altra parte noi nel 53, ma che c'è, vabbè che siamo vecchi, ma non così tanto, quindi insomma se dobbiamo iniziare a piangere lacrime amare non finiamo più. Quindi proseguiamo e arriviamo a un altro pezzettino da 9 milioni che è Count Basie. Vabbè. Sì, questo è un altro pezzo, l'ho dovuto mettere in onore, per quale motivo? Perché questo è il pezzo che Count Basie ha dedicato a uno dei locali della 52esima, tra l'altro uno dei più famosi locali della 52esima, anche se non tra i primi a essere lì, ovvero il Birdland. Che già ti dice tutto, Birdland ovviamente era in onore di Charlie Parker, il cui soprannome era Bird. Anche lì andatevi a vedere il film se siete così ignoranti da non sapere di cosa stiamo parlando. Di Clint Eastwood, 1988. Che bello il film. Bellissimo. Consigliatissimo. Sì, comunque se siete in un pomeriggio molto allegri, cioè dovete proprio essere che sprizzate entusiasmo. La storia, se uno conosce un po' la storia del bebop, non può essere difficile che sia allegra quantomeno. No, quindi no, però preparatevi. Sicuramente ne vale la pena. Assolutamente. E in questo caso, appunto, questo è il pezzo che Count Basie, che il Conte Basie ha scritto dedicandolo al Birdland. In questo caso registrato con la sua orchestra nel 1958, è stato scritto molto prima il pezzo. Basie era stato un grandissimo, però sicuramente l'ho messo per creare un collegamento con l'era dello swing, che comunque era un altro periodo storico che la 52esima strada ha vissuto, perché nel periodo dello swing la 52esima strada comunque era in super pompa, cioè le grandi orchestre andavano a suonare nei locali della 52esima strada, e quindi questo Count Basie, anche se registrato in quasi praticamente in periodo finale del bebop, perché 58 siamo già a fine bebop, però sicuramente è un pezzo molto, molto più legato all'era dello swing. Infatti la Count Basie e la sua orchestra è sicuramente stata una delle orchestre più innovative e creative di tutta l'era dello swing, insieme alle altre grandi orchestre nere, come ad esempio ovviamente quella di Duke Ellington, di Fletcher Henderson, ma ce ne sono state tantissime altre, ecco. E quindi volevo appunto farvi sentire questa Lullaby of Birdland del 1958 di Count Basie e la sua orchestra. Sentiamola. Slick Chick e Radio Wombat. Altri grandi applausi, che meraviglia Count Basie, mamma mia. Questa Lullaby. Quasi solo live stasera. Ma è giusto. Ma giustamente, se dobbiamo far sentire cosa significava la 52esima strada. Anche perché io quasi mai do dei live in questa trasmissione, mi rendo conto. Quindi guarda, compensiamo, facciamo così, che per un mese poi sono a posto, posto. Ho dato un sacco di live. Non tra mi l'altro, rompete più. Esatto, basta con questi sms. Comunque, l'Alabai, che veramente c'è, ma come si fa ad andare a dormire con questa... Cioè, non è che so. È proprio una cosa che ti culla il sonno, cioè, vabbè, era un po' così. E d'altra parte, anche Charlie Parker non era un uccellino, come ci insegnerebbe il suo soprannome, e quindi, insomma... Ma infatti il soprannome veniva per un altro motivo, Era per così. Come le note volavano col suo sassofono. Certo, giusto. Che poesia. Vabbè. Come erano poetici. Ebbene sì. E ora proseguiamo nella scaletta che, come avrete intuito, è bella ricca. E andiamo avanti con... facciamo un po' un salto indietro in realtà, perché abbiamo deciso, come da tradizione slick chic, che dell'ordine temporale non ce ne può fregare di meno. Giusto. E anche perché i nostri ordini mentali, i nostri salti mentali sono altri. Noi siamo molto oltre queste cose plebee dell'ordine temporale, ma che ce frega a noi. E quindi arriviamo a un altro club che in realtà ci dà un po' lo spunto per parlare dei vari club che c'erano sulla 52esima. Esatto. Un bel po'. Visto che questa Lullaby of Birdland era dedicata al Birdland, che però ha aperto solo in tardo periodo della sia bebop che della gloria della 52esima strada, ci dà il là per parlare magari dei grandi locali che si trovavano sulla 52esima strada, che tra l'altro locali che hanno, come vedremo, anche avuto un proseguo nella storia. I più famosi, i primi che mi vengono in mente, sono il Bop City, era un altro grande locale molto famoso della 52esima. Un altro era il Downbeat, che poi tra l'altro è stato il locale dal quale è stato preso ispirazione per far nascere la prima e forse la più importante rivista di tutto il mondo del jazz, ovvero appunto Downbeat, che è un po' l'equivalente per il jazz di Rolling Stone per il rock, per dire. O TV Sorrisi e Canzoni per la canzonetta italiana. Per fare un esempio più vicino a noi, no? Certo. Gino Paoli come farebbe senza TV Sorrisi? Capito. È così. Sempre gli vogliamo tanto bene a Gino Paoli e al copyright e alla SIAE. Ciao Gino! Lo salutiamo sempre, lui e la SIAE. Ciao Gino, ti vogliamo bene. Ginettaccio. E... c'era l'Embers, che era molto famoso soprattutto per dare spazio ai pianisti in solo, e che è uno di quelli che è riuscito a arrivare fino quantomeno la fine degli anni 50. C'era il Famous Doors, che era appunto questa porta famosa di questo locale dove i grandi che passavano di lì lasciavano la loro firma. L'Icory House, che era famoso per le sue bistecche rifocillanti, dopo tanta festa ci voleva anche un po' di companatico, come si dice, no? Chi se lo poteva permettere? Chi se lo poteva permettere? I disgraziati che erano a suonare, no, di sicuro. Pan con l'olio loro. Forse gli lasciavano, l'osso della T-Bone, sì. Ma... non sì. lo so. Sì. Che quello era più probabile lo dessero ai cani. Sì, mi sa anche a me. Esatto. Poi c'era il Jimmy Ryan's, sicuramente un altro molto famoso. Un altro molto famoso era il Kelly's Table, che è passato alla storia perché vi suonava spessissimo Coleman Hawkins, che era The Hawk, il falco, come tutti i grandi jazzisti, come tutti i grandi del jazz, anche lui aveva il suo soprannome, e Coleman Hawkins era The Hawk, che è stato uno dei grandi ispiratori insieme a Lester Young per Charlie Parker. Charlie Parker, anche se non era poi così tanto più giovane rispetto a Hawk e a Press, comunque possiamo dire che ha preso, almeno all'inizio, molto dal loro stile, anche se poi è andato dove è andato. Ci mise anche un po' del resto a farsi capire Charlie Parker, insomma, proprio però per insomma questo. È Coleman Hawkins, che è stato un grandissimo, e suonava molto spesso appunto al Kelly Stable. Un altro molto famoso, che poi andremo a risentire dopo, non vi voglio ganciare niente, è il Royal Roost, poi lo Small Paradise, lo Spotlight, un altro famosissimo è il Three Doices, che lo vediamo spesso nelle foto più famose, l'entrata del Three Doices della 52esima di quei tempi, nelle foto si vede proprio che l'Onyx e il Three Doices sono uno di fronte all'altro nella 52esima strada. Ma che poi io mi chiedo sempre, ma nella 52esima strada ci sarà stato tipo degli alimentari, un'edicola, cioè questi negozi un po', no? L'edicola di barbiere. Secondo me no. Il barbiere può barbiere darsi. Sì, chissà quante storie barbiere è molto probabile. Sì, macellaio, sono tutti questi negozi un po' più così. Però ha visto, gli americani sono molto schematici. Il quartiere dei ristoranti, lì tutti i ristoranti. Cioè, facile, semplice. 50 ristoranti, uno attaccato a quell'altro, quella è la zona dei ristoranti. Come, poi si sbaglia, va nel quartiere, non lo so, dei calzolai. È molto settoriale. Ho capito. Tutti questi nomi perché per introdurvi appunto il locale che era di fronte al Three Doices, che era l'Onyx. L'Onyx perché? Perché il prossimo artista che ci andremo a sentire è Art Tatum, con la sua famosissima T42 nella sua versione del 1933, che poi verrà, la ripubblicherà anche in vari altri periodi, ma appunto tutto questo perché? Per introdurvi all'Onice, che appunto... Che quello dovrebbe essere un posto, io madonna. Incredibile, perché era stato aperto intorno alla metà degli anni 20 e ovviamente in pieno periodo proibizionista... Sottolineiamo... Non poteva essere un locale, infatti era uno di quelli che si chiamavano speakeasy, che era una tipo, durante il proibizionismo, forse il locale che andava per la maggiore negli Stati Uniti. Che bellezza. Erano locali e bar, però ufficialmente non lo erano. Si beveva avevano succhini. Delle entrate... Magari c'era quello che aveva la parola d'ordine, quello che per entrare prima dovevi entrare nella cabina telefonica all'angolo Wu. E lì c'era all'interno dell'elenco telefonico il bigliettino con la parola d'ordine di quella sera per entrare, perché tutto per evitare che la madama potesse... arrivare a fare una sorpresina. Ma comunque poi alla fine della fiera era molto più divertente, se cioè, ammette che tutto... ora vai al pub, scusa, mi dai una birra, si sì, tieni. Quanto costa, tieni. Cioè invece così capito la tua guadagna, c'è cioè, una birra no. Cioè, che poi non la birra per niente, per lo scotch. Sì, no, bevevano doppio. Il gin, bevevano gin è vero. Come se le leggete un po' di storie della 52esima, fondamentalmente, essendo al di là della leggenda locali infimi, la maggior parte delle volte le bevute erano annacquate, le bettole, esatto. Cioè, l'unica cosa che era esagerata di questi locali effettivamente era la musica, perché poi pancacce, seggiole di legno, bevute annacquate, proprietari ultrarazzisti, mafia, segregazione. La maggior parte dei locali, ovviamente, per essere sempre lì, erano gestiti dalla malavita. E quindi, insomma, al di là della leggenda, dietro c'era una quantità di beghe abbastanza infinite. Ma divertente, no? Come ci si buttava via proprio all'epoca. E come mai questo Onyx per introdurre Artethum? Perché Artethum, si dice, la leggenda vuole che durante il proibizionismo si esibisse appunto all'Onyx e come compenso chiedesse solo ed esclusivamente esattamente sei bottiglie di birra a esibizione. Capito? A no, tè per due, altro è tè per sì, due. Sì, te lo raccontava a te. E poi, una volta finito il proibizionismo, esattamente il 5 dicembre del 1933, quando poi l'Onyx riaprì come locale regolamentare, diciamo, ovvero poco dopo una ristrutturazione, perché dovevano togliere tutto quel ricettacolo di richieste che c'erano prima dell'entrata, l'hanno un po' risistemato e ha riaperto poi dopo come locale legittimo il 4 febbraio del 1934. E giustamente l'Onyx è considerato il locale che è stato una delle culle dello swing, anche se, come andremo a sentire, Artethum con lo swing ormai c'ha veramente tanto poco a che fare. Era sicuramente un boppers, e Artethum poi è molto particolare, perché, come ti stavo dicendo prima, appunto, a livello compositivo quasi zero, però a livello strumentale, almeno secondo me, è stato uno dei più, sicuramente a livello virtuosistico, tra i primi cinque pianisti della storia del jazz. Infatti ha avuto una, non particolarmente grossa, però una discografia non proprio striminzita. Importante. E secondo me, per capire l'arte di Artethum, I migliori dischi sono sicuramente quelli in piano solo, che è una delle cose che almeno a me hanno stupito. Uno dice, un disco di piano solo, insomma, deve essere proprio, se non sei un pianista o un musicista o un compositore, dici, ma dopo un po' palle. Lo devi saper sostenere. E invece, se vi andate a sentire anche solo proprio quello che si chiama piano solo di Artethum, è veramente incredibile, perché sembra che quest'uomo sia un polipo, cioè una roba che dici, sei Krishna. Ma non la birra, sarà le sei bottiglie. Alla sesta birra gli spuntavano sei braccia come a Krishna e cominciava a suonare. E appunto... Esatto. E un'altra curiosità, ma questa, vabbè, ce la teniamo per dopo. Ce la teniamo per dopo. Se no poi sveliamo troppo, poi se ne vanno, vanno a vedere la televisione. Sì, no, lasciamocela per dopo. Quindi sentiamoci Artethum e i suoi 20.000 bracci polipeschi. Con T42 del 1933. Thank you. aggraziata, veramente aggraziata. Come eri aggraziato, Art. Ma veramente, con queste tue 6 bottiglie, anzi forse direi nonostante le tue 6 bottiglie, guarda com'eri. No, com'eri. Ma le 6 bottiglie erano necessarie per farlo funzionare probabilmente. Giusto. Senza niente, ma infatti lui non è che era il cashier, era proprio cioè, se no si fa nulla. Proibizionismo, scusa, capito. Infatti, guarda che bei prodotti. E quindi, allora, ci rimane ancora un bel po', siamo circa alla metà, dobbiamo ancora, dove siamo della strada? Stiamo camminando. Sì, stiamo ancora abbastanza camminando. E ce n'è, perché ne so chilometri per fare un blocco. Ci va chissà quanto. Visto le distanze nella mappa, bisogna anche avere un certo passo, secondo me. Secondo me sì, ma comunque stiamo dando secche. Secondo me siamo bravi, abbiamo un passo sostenuto. E da Artatum ci spostiamo di nuovo un pochino in avanti, perché qui c'è un gancio. C'è un gancio. Sulla scaletta leggo gancio. Io ripartirei un attimo. Ah, però è vero, ci siamo dimenticati di dire quella cosa sull'Onyx. Appunto, esattamente. La cosa ganza dell'Onyx, quando ancora era uno speakeasy, appunto come si chiamavano ai tempi del proibizionismo, siamo venuti a sapere che la parola d'ordine per entrare all'Onyx era «Sono della 802». E qui secondo me bisogna riutilizzarla questa cosa. Ora si propone nei vari posti liberati fiorentini. Potrebbe. Che invece di chiedere la solita birra noiosa, uno... «Sono della 802». Esatto. E l'altro ti fa «Eh? E che?» «Poppa!» Esatto, vedi, È così funziona grande. Benissimo. Le risa da domani e subito. Perfetto. Perfetto. Ma perché dell'800? No, abbiamo rivelato questa. No. Cazzo, no, forse non andate. Dopo ci si prova subito. Ma però. Sì, ma infatti, ma chi ci ascolta tanto? Sono dell'802. E perché 802? Perché 802 era il numero del sindacato dei musicisti. Che faceva più paura della madama. Sì, perché poi diceva come sindacato dei musicisti, poi dovrebbe tutelare i musicisti. Sì, dipende da che colore ci avevano la pelle, ovviamente. E da quanto li pagavi. Esattamente. E diciamo che il sindacato dei musicisti negli anni 30... non era proprio che vedesse di buon occhio questi neri che invece di stare a lavorare nei campi del sud andavano lì a New York a suonare e a intrattenere. Cioè, li tollerava perché avevano ovviamente un successo e un rientro esagerato. Però diciamo sicuramente non è che l'aiutasse, ecco. E questa parola d'ordine già vi può far capire. Sì, anche perché in realtà il sindacato, cioè non stiamo parlando del IWW per capirsi. No. Cioè è il sindacato quello come, che a noi italiani può suonare un po' più tipo quella protezione che vi viene offerta quando c'è in un locale. Esatto. E sai, ti possono succedere tante brutte cose, se tu mi dai dei soldi io ti do della protezione. Secondo me era più su quel genere lì. Esattamente, e infatti dicendomi questa cosa proprio ti sovviene qualcosa? Non so quanto voluto, però per l'appunto il 28 febbraio del 1935, guarda un po', l'Onyx brucia completamente. Ma pensa, ma guarda, ma strano. È l'autocombustione. Piaga, non si può piaga. Neanche dire il calore, perché il 28 febbraio a New York calore non lo so. Vabbè, ma guarda, ma poi ci sono queste grosse lenti di ingrandimento che col raggi del sole fanno prendere fuoco ai locali. Succede. I bastoncini, la paglia. Poi messi a una certa inclinazione per l'appunto. Casino. Poi il raggio è andato lì. Insomma, l'Onyx diventa cenere, però l'anno dopo viene prontamente, anzi neanche l'anno dopo, poco tempo dopo, chissà che non l'abbiano fatto anche solo a scopo di rinnovamento locali. Eh, infatti il, già il 23 luglio del, dello stesso anno l'Onyx riapre e via con il chitarrista Carl Kress e il quintetto del cantante William Red McKenzie. E tra l'altro avevano avuto anche un discreto successo, però nel 1936 Red McKenzie fu rimpiazzato dal gruppo del violinista Staff Smith, che ebbe un incredibile successo tra l'altro, però anche il la poi invidiabile nota di merito di far licenziare l'allora sconosciuta Billie Holiday. Ecco, che tanto lei mana gioia nella vita. No, cioè, per carità, ha visto, se no dopo... Si sta troppo bene. Poi, licenziata per cosa? Solamente perché questa tipa nera aveva volardire di avere un sacco di successo e lissando il band leader. Capivo però, cioè, se non stai nel tuo, se non sai stare nel tuo... Però almeno la storia gli ha reso merito, perché il violinista Staff Smith, a parte qualche forse centinaio di appassionati in giro per il mondo, è rimasto un po' lì. Invece Billie Holiday, nonostante una vita sfortunatissima, direi che nel mondo della musica ha avuto tutto un altro peso specifico. Gli ha fatto stecca, è lì che gli fa ancora. Esattamente. Billie. E anche perché questa cosa dell'invidia non ci aveva visto sbagliato, perché da lì a brevissimo questa ragazza che appunto aveva riscosso questo così grande successo, sì, era stata licenziata da lui, però in 3 secondi e mezzo era stata reclutata da un'altra parte. E poi la nostra Lady Day, giustamente anche lei essendo una grandissima ha il suo personalissimo soprannome, capito, perché verrà così nominata a furor di popolo come la regina della 52esima. Oh. Quindi anche se era stata, diciamo, segata dall'amico violinista... Ma io mo voglio vedere che mi dice. Gli avrà detto ti c'ho nel cuore, però... eccetera, eccetera. eccetera, eccetera. E tutto questo perché? Per introdurre a questo punto la prossima canzone, che è niente po' di meno che una canzone giustamente di Billie Holiday, in questo caso con, possiamo dire, il suo amore storico di quei tempi, ovvero il leggendario Press Lester Young, altro gran leggendario sassofonista, altro grande nome tutelare e ispirazione per Charlie Parker insieme a Coleman Hawkins. L'altra ispirazione appunto era Lester Young, detto Press, the President. Capito. No, ma infatti, cioè, noi ci abbiamo dei soprannomi tutti un po' più modesti. Devo no, dire. Invece loro quando cioè, sono loro... Count Basie era il Conte, Press, Count. Hawk. Vabbè, no, vabbè, che si deve fare, poracci, facevano quel che potevano, insomma, però ecco, vabbè. No, giustamente, tutti soprannomi altisonanti. No, infatti, dovremmo imparare, insomma. Insomma, non è che sono andato a soprannominare proprio le ultime pippe trovate per la strada, quindi secondo me ci poteva stare. Ma ecco. Sì, ma sì, ma va bene, va bene. E appunto, ricordando un po' la storia della regina della 52esima, ci ricorda appunto nella sua sfortunata, diciamo, esistenza a tout court, direi, perché nonostante l'impronta indelebile che ha lasciato nella storia della musica, la sua vita non è stata sicuramente fortunata. Sì, sì, una sfiga dopo l'altra. Billie Holiday ricordava appunto che quando aveva iniziato a lavorare nella 52esima strada con l'orchestra di Teddy Wilson a metà degli anni 30, ricordava appunto che il clima della 52esima strada gli ricordava molto il clima delle piantagioni del sud, a livello di segregazione, a livello di comportamenti, a livello di atmosfera che si viveva. Che tra l'altro questo mi fa venire in mente che quando avevo proposto appunto a Daniela, ma facciamo una trasmissione insieme, facciamo una puntata insieme, tra i vari temi che c'erano venuti in mente, oltre alla 52esima strada c'era il Cotton Club. Esattamente. Poteva essere pure quello, che comunque continua a essere abbastanza interessante. E il Cotton Club, in realtà poi si è detto, sì vabbè, ma la 52esima strada ce n'è da parlare troppo di più, c'è troppo più roba bella, e poi abbiamo optato per quello. Ma il Cotton Club, fra l'altro, in realtà era particolarmente importante perché paradossalmente ha visto esibirsi dei re e delle regine della musica. Specialmente dello swing. Sì, c'ha dei personaggi leggendari, incredibili, meravigliosi, tutti neri, tutti afroamericani, e l'ingresso era vietato ai neri. Assolutamente, infatti. E c'era una delle peggiori segregazioni e dei peggiori climi che si potessero respirare. Una delle cose incredibili che appunto tutti i musicisti ricordano di quel periodo lì è che, cioè, loro erano le star assolute di questi locali, e la gente pagava e strapagava per andarli a sentirli suonare, però loro, le star, i musicisti, innanzitutto neanche potevano entrare dall'ingresso principale. Tra l'altro, i musicisti neri dovevano entrare dall'entrata secondaria, dall'entrata di servizio. Sì, sì, ma non potevano neanche mangiare dove mangiavano gli altri. Anche se erano le star di quel posto, non si potevano presentare come clienti. Eh sì, che avrebbe da insegnare un bel po' alle star poi degli anni successivi. E dice anche tantissimo dell'ipocrisia sconfinata che ci sta dietro a questa cosa, nel fatto della segregazione, nel fatto di tutto. Ora ci sarebbe da starne a parlare da qui a, non lo so, chiuderebbero insulti. Non lo so, finché non ci chiamate tutti e ci volete abbattere. Però ecco, i grandissimi artisti dello swing, del bebop è già la musica del cambiamento, è già la musica della lotta per i diritti civili degli afroamericani, e appunto, come vi dicevo prima, il bebop è nato come atto rivoluzionario all'interno del mondo della musica contro i bianchi. È stato in ambito musicale forse uno dei primi segni di rivolta a livello artistico verso l'establishment, verso l'industria bianca. Ah, sì. Era una delle primissime volte che appunto i musicisti neri si rivoltavano, perché se ti ricordi, l'altra prima grandissima star, ma ancora prima dell'era dello swing, nera, era Louis Armstrong. Certo. Che Louis Armstrong, però, da tutti i neri, specialmente dai boppers, era una figura non voglio dire odiata, però assolutamente controversa, perché i neri consideravano Louis Armstrong lo zio Tom, il nero che era assolutamente accondiscendente e servizievole verso i bianchi, e grato verso i bianchi che gli davano le molliche di pane, lo facevano lavorare e gli facevano bravo, bravo. Eh sì, anche i perché i boppers, infatti, con Louis Armstrong ce l'hanno abbastanza. Sì, poi di fatto Armstrong era diventato una macchietta. Era assolutamente. Nonostante la sua grandezza e immensità, però di fatto era il prototipo del negro scemo con la bocca larga. E sì, anche come voce, questa voce un po' particolare. Ora. Quasi, che mi fa impazzire, però al tempo era la cosa esotica, la cosa strana, senza nessuna dignità, senza orgoglio, ora, senza... Non per volerlo infamare così tanto, voglio anche spezzare lancia a favore di era lui, meraviglioso, di lui, dai, diciamocelo. Che prima della parabola calante della sua carriera... Louis Armstrong ha il grandissimo merito di aver creato e inventato quell'evoluzione della storia del jazz che ha portato dal suono di New Orleans allo swing. Ma in generale lui con la Fitzgerald era già fine swing, inizio bebop. Ma Louis Armstrong ancora prima, perché è proprio quello che porta il suono di New Orleans degli anni 20 nelle grandi città e lo fa diventare swing. I lavori fondamentali della carriera sconfinata di Louis Armstrong, secondo me, sono i suoi lavori con i suoi due complessi che si sono chiamati gli Hot Five, il quintetto, e gli Hot Seven, il settetto. No, ma infatti ora non vogliamo togliere niente appunto a Luigi. A Luigi, però. Assolutamente. Visto che l'abbiamo infamato fino ad ora, diamogli anche quello che si merita. Sì, no, dai. Assolutamente, però c'è da dire che purtroppo la società dell'epoca, insomma, come se poi adesso invece si stesse nell'oro, però insomma al tempo era bella hardcore, effettivamente prendeva questi personaggi meravigliosi da cui avrebbe potuto imparare e attingere a piene mani, li sfruttava, li succhiava fino all'osso e poi li sputava, certo. Poi di fatto. Quindi il povero Luigi si è trovato suo malgrado esattamente in questo meccanismo. Non so assolutamente dire se consapevole di cosa stava succedendo, chissà, non lo so, non lo saprò mai. In ogni caso è andata un po' così e sicuramente tutto il rancore e la rabbia che i beboppers provavano affondava le radici in questo, cioè nel fatto di sentirsi sfruttati. In un odio in uno sfruttamento secolare, certo. E meno male non c'erano ancora le Black Panther, perché sennò dopo le Black Panther infatti sono arrivati dopo, che poi gliene davano ancora più giù che duro. Poi c'è da dire che, per farvi rendere conto della situazione qual era, già i jazzisti nel dolore, nella tragedia della loro storia, della maggior parte delle loro storie, potevano forse ritenersi fortunati rispetto ai bluesmen quelli del country blues, i vari Charlie Patton, Son House, Robert Johnson, eccetera, che loro invece farli andare, sfruttarli come scimmiette da spettacolo, li sfruttavano sulle strade proprio. Loro proprio hanno fatto una fine, cioè chi è morto di stenti, chi è morto nelle situazioni, nei bordelli, nei bordelli, chi è stato lasciato morire di fame, chi è stato ammazzato, pestato, chi è stato appeso agli alberi, chi è stato avvelenato solo perché magari aveva osato incrociare lo sguardo con la donna sbagliata quella sera durante lo spettacolo. Cioè è la vita, specialmente negli stati del sud, all'inizio del secolo scorso, del Novecento, la vita di un nero, come ci ricorda Leroy Jones, quello che poi si è chiamato Ameri Baraka nel suo fondamentale, direi, libro Il popolo del blues, ci ricorda cioè la vita di un nero nell'America di quegli anni valeva meno davvero di quella di un cane o di una mosca. Erano stati liberati con la guerra di secessione, ma fino a che non è arrivato Martin Luther King e la lotta, cioè uno dei tanti è stato Martin Luther King, ma quando insomma è arrivato una certa consapevolezza, la coscienza razionale di quello che era la situazione. Obiettivamente la situazione dei neri in America era quella di possiamo essere... Possiamo dire che in questo la musica ha aiutato un bel po', perché insomma moltissimo. Ha fatto prendere coscienza e un certo grado di orgoglio meritato, che sì, che non siamo... Non solo non valiamo meno di un cane, ma cioè, valiamo un sacco, siamo bravissimi, certo, spacchiamo e quindi ora ci prendiamo quello che I vostri locali sono tocca. Pieni... Perché ci siamo noi a suonare, esatto. E stiamo facendo una musica che solo noi sappiamo fare, perché abbiamo trovato il modo per non farla suonare ai bianchi. Tra l'altro, tanto non ve riesce. E quindi, sì, tra l'altro direi che All of Me di Billie Holiday e Lester Young è un ottimo aggancio a tutto questo, anche perché insomma poche puntate fa, quando si parlava del colore nero, per l'appunto, proprio qui a Slick Chick, vi facevo sentire Strange Fruit di Billie Holiday, che è una roba che poi non potrebbe strapparti il cuore in quattro pezzi. No, non mi ricordo se l'avevi detto questa, l'avevi detta della prima volta che era stata cantata Strange Fruit. Sì. Che ovviamente non era stata annunciata e... Tra l'altro lei non manco la facevano andare, ora Strange Fruit o no, ma non la facevano andare al sud a cantare, perché proprio sud non no. Era il caso. Infatti qui stiamo parlando di New York. Sì, che già era una boccata d'aria fresca. Sì, quindi ascoltiamoci Billie Holiday, Lester Young con All of Me e poi ritorniamo subito su Slick Chick. Mm-hmm. qui ragionano, dicono le cose loro. C'è la Billy che ragiona a fine che registrazione. Dice? Poi tra l'altro questa versione di All of Me è una alternative takes, come si dice, infatti è una versione non diversa ma più estesa della All of Me, diciamo più notoriamente conosciuta. Sì, fra l'altro bellissima, poi veramente Billie Holiday, io l'ho ascoltata e l'ascolterei veramente fino all'infinito. Proseguiamo veloci veloci perché ci restano un po' di pezzi un po' lunghetti e quindi dobbiamo metterci in pari, anche perché insomma adesso c'è un altro, no vabbè, devo dire che non stiamo parlando di nessun personaggino così marginale, cioè non saprei veramente perché e ora questo e poi questa e questo, cioè sono tutti che si deve sono tutti enormi. Appunto, c'era il tema di stasera, era proprio da attingere a piene mani, volendo si potrebbe andare avanti. No, no, l'enormità direi, sì, il tema sì, di stasera. Sì, sì, sì. Altro una che 52esima, sì. Perché adesso ve l'abbiamo un po' anticipato, cioè diciamo che abbiamo fatto un ponte all'inizio grazie a Count Basie e l'Alibi of Birdland eccetera, ma adesso parliamo proprio di Bird, Charlie Parker, e che suona a casa sua sostanzialmente. Che suona a casa sua al Birdland, infatti questa è una registrazione del 30 giugno del 1950 del quintetto di Charlie Parker che suona nel suo Birdland. E quintetto di Charlie Parker non da poco, perché in questa registrazione, oltre ovviamente a Charlie, a Bird, al sax alto, ci sono niente po' di meno che Fats Navarro alla tromba, Bud Powell al piano, Carly Russell al basso e Art Blakey alla batteria. Direi che un quintetto che poi direi che è come se avesse generato altre quattro strade diverse da questo, cioè un quintetto che è praticamente una piazza che poi ha fatto partire altre cinque strade diverse. E tutte sì, molto importanti, direi, perché ognuno è un pezzo da 90 del suo strumento. Però tornando a Birdland e appunto a Charlie Parker in particolare, la cosa abbastanza malinconica è che nella fase del suo declino psichico e fisico, Charlie Parker non era neanche più ben accetto a casa sua. Cioè Bird, dopo un certo punto della sua vita, al Birdland non ci poteva più entrare. Ne aveva fatte troppe. Ne aveva fatte, direi, troppe. Anche quelli del Birdland magari si erano rotto un po' i coglioni. Perché va bene l'artista naif, un po' così eccentrico. A un certo punto ci ha rotto il cazzo. Che l'eroina, avete un po' rotto coglioni. Eh sì, e quindi anche qui si crea un ponte con Billie Holiday sulle sostanze, per l'appunto. No, vabbè, autostrada. Cioè è un'autostrada, perché penso che purtroppo i boppers, i jazzisti neri in particolare, sono stati quasi tutti completamente mangiati e uccisi dall'eroina che scorreva a fiumi. E ora sarà anche un'ipotesi complottistica, però forse non era proprio così un caso che... Due domande uno se le fa. Esatto, anche perché nascevano proprio in quegli ambienti lì, cominciavano a nascere le prime idee non proprio... Accomodanti verso l'establishment dei bianchi, e quindi la roba viaggiava a fiumi e forse era stata... c'era anche, diciamo che c'era anche stata mandata. Una bella spinta, sì. Sicuramente l'effetto calmante l'ha fatto collettivo, l'ha avuto purtroppo. Più che altro devastante anche, sì, direi. E comunque il Birdland aprì i battenti molto tardi, diciamo quasi alla fine dell'epoca d'oro della 52esima. Infatti ha aperto per la prima volta le sue porte il 15 dicembre del 1949, praticamente sei mesi prima di questa esibizione di Bird. Fresco fresco. Sì. E, tra l'altro... sì, al Birdland andavano a suonare veramente tra i più grandi, oltre chiaramente a Charlie Parker, possiamo ricordare Stan Getz, Lenny Tristano, Lester Young, anche Harry Belafonte, ha, per dirti. Oh là là. E, è rimasto aperto più o meno una quindicina di anni. Con, tra l'altro, per farvi capire l'ambiente, concerti che venivano doppiati e a volte anche triplicati durante la stessa serata, arrivando ampiamente a mattino, ecco. E anche lì, altro che star, cioè dopo che fai lo stesso concerto per tre Birdland volte, è stato anche sei proprio... un operaio, non sei una star. Esatto. E... il Birdland è forse stato il locale più famoso nello stardom, diciamo, dei tempi, perché al Birdland ci potevi trovare veramente, veramente tutte le star del periodo, cioè, tutte le grandi star del cinema e dell'alta società andavano a farsi vedere. Era il locale in di New York ai tempi. E sì, ma infatti... Per dirvi, cioè, al Birdland, ora in una fase completamente, anche questa, completamente successiva a quella di cui stiamo parlando adesso, al Birdland è stato... registrato lo storico Live at Birdland del quartetto di John Coltrane, ad esempio. A proposito di jazz bianco. Vero. Certo, ma vabbè. John Coltrane... Vabbè, ma lì siamo su un'altra storia, Madonna, su un altro pianeta. Mia. Un altro pianeta. Va bene, ascoltiamocela. Ma l'abbiamo detto il titolo? Forse no. Il titolo? Ah, ovviamente. Scusate, perché no, vale. Giustamente dice Charlie Parker al Birdland. Detto Bird. Bird, che suona al Birdland, non potevo che non farvi sentire il suo brano più famoso, quello che poi ovviamente è diventato uno standard, ovvero Ornithology. Perfetto, direi. Ascoltiamocelo. Thank you. Radio Wombat, sempre comunque siete all'ascolto di Slick Chic e mi sono dimenticata di dirvi ancora, ricordarvi Social Wombat, lo faccio adesso. Il sito innanzitutto wombat.noblogs.org. Abbiamo un po' di problemi in questi giorni tecnici, il collettivo di autistici inventati che supporta e che ospita la piattaforma di noblogs.org sta lavorando alla cremente, ma purtroppo ci sono un po' di problemi tecnici, quindi il sito non è tanto aggiornato con gli ultimi podcast, ma lo sarà a brevissimo, stiamo tutti scalpitando. Quindi tenetevi collegati perché poi ci sarà un'esplosione. Arriverà un momento in cui ci sarà un'esplosione di post, sì, perché arretrati, incredibile. Ebbene sì, e poi ancora la casella di posta, postawombat@insiberia.net, e questi sono i due essenziali su cui seguirci e tenervi aggiornati e aggiornate. E da Charlie Parker proseguiamo rapidi a Miles Davis. Qui vabbè, ma che si deve dire? Direi che è completamente... un altro universo che si prospetta, che si davanti, perché anche solo a nominare Miles si apre davanti praticamente la storia del jazz. E non solo. E non solo, direi. No, perché se poi uno poi mette le storie che ha avuto, le donne, già anche lì si apre altro, il funky. Vabbè, no. Lasciamo fare. Stiamo andando a toccare veramente i pilastri della infatti musica. Chiudiamo questo tombino subito. Miles Davis. O almeno apriamone giusto questo pezzettino. Sbirciamo, una sbirciata. Perché settembre, 4 settembre 1948. Perché Miles Davis è... Miles Davis è Miles Davis perché ha attraversato praticamente tutte le fasi dell'evoluzione del jazz da praticamente dall'inizio degli anni 40 fino a che ha avuto l'ultimo soffio di fiato per buttarlo dentro alla sua tromba. È stato è stato uno che ha avuto un ruolo determinante in ogni evoluzione di questo genere musicale, perché veramente Miles è passato dal bebop, che forse ha vissuto un po' più da esterno, diciamo, sì. un po' più da strumentista, da session man, ma poi da lì, come vedremo adesso, quello che è chiamato cool jazz l'ha inventato lui. Poi tutte le sue varie evoluzioni, cioè il suo quintetto, i suoi sestetti con John Coltrane, la clamorosa svolta elettrica di Miles Davis con le sue formazioni elettriche con doppio tastierista, Chick Corea, Herbie Hancock, per poi arrivare alla fusion che praticamente ha inventato lui, che è l'ultima evoluzione del jazz. Cioè, poi la fusion fondamentalmente è l'unione del jazz con il rock, poi si è trasformato in jazz rock, è andato da un'altra parte, però insomma la fusion si può dire che l'abbia inventata Miles Davis con la sua svolta elettrica, e quando l'ha fatta appunto è stato un po' come quando Bob Dylan si è presentato con una chitarra elettrica a Newport nel 65 e la gente lo voleva scannare per dire un po' l'impatto. Eh sì, perché Miles Davis va detto appunto che è stato un personaggio sicuramente che ha saputo ascoltare quello che in giro c'era e non soltanto intorno a lui nella stretta cerchia, anche se poi la stretta cerchia, insomma, appunto penso a Bette Davis, la sua compagna, e poi la compagna anche di Jimi Hendrix, e quindi di fatto insomma anche proprio andando proprio vicino poi ha avuto il mondo anche gli voleva dire delle cose, una direi non così insignificante carriera anche da artista, la Bette Davis. Eh sì, ma infatti molto funky. Ma infatti, no, meravigliosa, bellissima. Influenzati a vicenda, insomma, dove poi molto spesso, anche lì è bello, anche lì ne abbiamo parlato nelle puntate scorse, di quanto poi sia stato detto, di quanto Bette Davis sia stata influenzata da Miles Davis, ma è vero assolutamente anche il contrario. E però sì, c'è da rendere merito a Miles Davis di aver aperto le orecchie, insomma. C'è da dire che Miles Davis veniva molto influenzato dalle sue compagne, ecco. E però non è da poco, insomma, no. Sapersi fare influenzare. E quindi il caro Miles, come si dice in italiano Miles? Milo? Non penso sia... Ma sì, non esiste. Vogliamo tradurlo in Milo, non lo Milo. So, però non rende tanto l'idea. Miles, chiamiamolo Miles. E come mai tutta questa chiosa su Miles Davis? Perché Miles Davis al tempo, diciamo subito prima di registrare e pubblicare quell'album fondamentale che è The Bird of the Cool, provava i pezzi che poi inciderà su The Birth of the Cool proprio al Royal Roost della 52esima strada. Perché non è che lo provi a Campi Bisenzio, cioè te lo... sulla 52esima. Lo provi dove è la strada del jazz. Voglio dire. Non è che lo puoi andare a provare, ne so... A Milano. O hai sottopassa alle cure. Capivo, cioè poi che ti sente invece lì... Capì? E questa è appunto il nonetto che poi di lì a poco andrà a registrare The Birth of the Cool. E direi che vale abbastanza la pena anche di ricordare questa formazione allargata, infatti un nonetto, perché il cool jazz, tra le cose determinanti, era che introduceva all'interno del classico ensemble jazz anche elementi e strumenti che con il jazz non ci avevano, anzi avevano veramente poco a che fare, più elementi da orchestra classica. Comunque mi viene da pensare tipo il flicorno, la tuba, il corno francese, che sarà un altro strumento determinante del cool jazz. Che bellezza, corno francese. E questo nonetto era composto, che suona, ricordo, questa registrazione è del 4 settembre del 1948 al Royal Roost della 52esima strada, e il nonetto di Miles Davis, oltre a essere chiaramente Miles Davis alla tromba, è Mike Zwerin alla tuba, tra l'altro anche la tuba non proprio uno strumentino normale. Era nelle jazz band di New Orleans la tuba c'era, ma lì erano altri tempi. E lì, guarda, ma fuori dai microfoni confabulavamo di prossime puntate su New Orleans, e lì si aprono altri tombini e vasi di Pandora. Vabbè. Poi Junior Collins al flicorno. Che bello. Flicorno, ma poi senti come suona, flicorno, sembra un po' tipo unicorno. Che vabbè, poi è un tipo particolare di tromba, sì, fondamentalmente. Poi alla fine sì, però, sì, però c'è con una costruzione diversa. Poi Bill Barber alla tuba, scusate, perché Mike Zwerin non era alla tuba, era al triangolo. No. All'ocarina. Ora quando mi riviene al kazoo. Quando mi riviene in mente ve lo dico. Il kazoo, ci voleva un suonatore di kazoo. Il kazoo. Secondo me suonava il kazoo, Può darsi, però secondo me questo che ho scritto non era proprio riconducibile al kazoo, però andiamo avanti, poi ve lo ridico cosa suonava Mike Zwerin. Insomma, Bill Barber era alla tuba, il grandissimo Lee Konitz al sax alto, l'altrettanto grandissimo Jerry Mulligan al sax baritono, John Lewis al piano, Al McKibbon al contrabbasso e niente po' di meno che Max Roach alla batteria, e la voce è di Kenny Haygood. Ah, che meraviglia. Non indugiamo, a meno che tu non abbia altri dettagli. Dettagli è che l'inizio è appunto il tema di Birth of the Cool, scritto da Gil Evans, un altro grandissimo del jazz, e subito dopo però è solo, diciamo, un'introduzione, una intro, e il brano che sentiremo è Move. In questo caso. Sì, noi in realtà abbiamo qui un lungo live che però sfumeremo, insomma, vi facciamo ascoltare solo il primo pezzo. Sentiamocelo. And right now, ladies and gentlemen, back to the Royal Roost, where the lights are low, the music with that gone groove, right here at 1580 Broadway between 47th and 48th Street. That's right opposite the Strand Theater, where you can sit back and relax and dig some of the wonderful things. And right now, ladies and gentlemen, we bring you something new in modern music. We bring you Impressions in Modern Music with the great Miles Davis and his wonderful new organization, featuring Max Roach on drums, John Lewis on piano, Al McKibbon on bass, Lee Konitz on alto, J. Jerry Mulligan on baritone. You all remember Jerry for the disc jockey jump that he did with Gene Krupa in the band. Bill Barber on tuba. That's right, Bill Barber on tuba, Junior Collins on French horn, and Mike Zwerin on trombone. Ladies and gentlemen, let's give them a big hand for something new in modern jazz. Ladies and gentlemen, the Miles Davis Organization, as they do for you a John Lewis arrangement, their first tune, a thing called Move. Finisce proprio così. Segata. Eh no, perché poi partiva quella dopo. Infatti io mi aspettavo da ora sfumerà. No, no, borda. niente. Proprio così nessuna pietà. Proprio così brutale. Giusto, giusto. No, infatti. Ma abbiamo scoperto che non era la tuba. Cos'era? Era il trombone. È il trombone, ma dai, perché sì, c'era TB, non era tubercolosi, TBC, no. Era il trombone. Quindi era venuto sappiate. Anche appunto sax tenore, però no. No, infatti non era, assolutamente. E quindi, allora, prima di proseguire con la scaletta, ci mancano giusto tre piccoli pezzi. beh, piccole, insomma, il primo non è tanto piccolo, ma gli altri due sì. Vi leggo gli appuntamenti dell'agenda del Wombat di questa settimana, che è veramente ricca. Si vede che è arrivato l'inverno. Si ripopola il palinsesto. Meno male. Il programma fiorentino. Era una noia, è vero, c'era sempre due o tre cose e basta. Invece ora, meno male, si riavviva tutto. Almeno quello che, come sempre vi dico, ci mandate, ci segnalate alla posta wombat@insiberia.net, il resto che non ce lo mandate, fatti vostri, avete a mandarcelo. E iniziamo da domani, giovedì 30 novembre, alla Polveriera, alle 18:30, presentazione del nuovo laboratorio teatrale, che poi in realtà inizierà ad essere ogni giovedì alle 18:30 per l'appunto. Quindi domani è la giornata di presentazione. Più a seguire la serata benefit per la Critical Mass, che vi iniziamo a dire fin d'ora sarà Critical Mass, la CMona cosiddetta nazionale, sarà quest'anno a Firenze, mi sembra a fine maggio, quindi insomma iniziate a tenervi pronti e scattanti e iniziate a allenarvi. Il tutto, insomma, la Polveriera, domani, giovedì 30 novembre, dalle 18:30 alle 23:30, come al solito, chiusura presto, quindi muovetevi. Poi proseguiamo con venerdì 1 dicembre al Next Emerson, serata fitta di cose, di contenuti vari e variegati. Si inizia alle 20, visto che fa freddo, una ribollita fatta a modino e dolci autunnali. Quindi se non vi staniamo di casa così... Se non venite a mangiare la ribollita, se è veramente dei folli. Cioè siete dei nemici del popolo. Mia. Anche perché a casa che vi fate, sofficini? Cioè io mi immagino uno venerdì sera non c'ha voglia. La solita venite pizza. A mangiare la ribollita e fa anche bene. Giusto, come la fa la mamma. Poi a seguire alle 21. Tra l'altro la ribollita è pure vegan, non sbaglio. Eh sì che è vegan, certo. Infatti, i dolci autunnali pure saranno vegan. Quindi proprio, cioè, vabbè, non avete scuse. Come ci insegna lo spottino che ha girato e sta iniziando a girare in radio in questi giorni, alle 21 invece, sempre a Next Emerson, venerdì 1 dicembre, presentazione di Scarceranda 2018, il nuovo numero della nuova edizione dell'agenda anticarceraria di Radio Onda Rossa di Roma. Poi a seguire alle 22 c'è una serie di performance di cinema reinventato e artigianato in pellicola, per così dire, e ospite ci sarà l'atelier MTK, o in italiano MTK, di Grenoble, Francia, che sono dei pionieri, possiamo dire, o comunque dei paladini della reinvenzione cinematografica. Fanno delle cose assurde con la pellicola, ci giocano un sacco, la colorano, la sonorizzano, ci fanno di tutto, e sarà molto interessante. Arrivano con dei proiettori a 16 mm rifatti da loro, rimaneggiati da loro e reinventati da loro, più proiettori in Super 8, insomma ne vedrete delle belle se passerete di lì. Poi insieme all'atelier MTK c'è il 70 FPS da Napoli, invece anch'esso a fare più o meno lo stesso grado di follie con la pellicola. E poi a seguire, indicativamente verso mezzanotte, live dei Gargamella, duo che per gli affezionati di questa radio, insomma, non mi sarà capitato la prima volta di ascoltarli, sono degli amichetti. Duo di atmosfere medievali in chiave stregonesca, ma anche odierna, perché mischiano strumenti antichi, appunto medievali e non, a strumenti invece modernissimi, elettronici, quali theremin o cose di questo tipo, effettazzi e quanto di più. E basta, questa è la serata lunga ma piena di venerdì 1 dicembre. Si prosegue con sabato 2 dicembre. Allora, il pomeriggio in realtà c'è il corteo No Inch No Aero, Quindi corteo indetto dalla Piana contro le Nuove Civiltà e tutte le varie sigle e movimenti che da anni stanno lottando contro la realizzazione dell'inceneritore e l'allargamento della pista dell'aeroporto e in generale la devastazione della Piana di Sesto e Campi. E come già vi avevo annunciato la settimana scorsa, in realtà se non potete andare al corteo, mal ve ne incolse, ma siete perdonati perché potete stare incollati alla vostra radio preferita, perché ci sarà la diretta di Radio Wombat che seguirà da vicino il corteo, facendo un po' sentire le varie voci che si alterneranno a microfoni che ci racconteranno cosa sta succedendo in piazza. In contemporanea, invece, sempre sabato 2 dicembre al Next Emerson Exchange Cyphers, la consueta mensile serata di breaking e hip hop, funky e quant'altro ci dà la scusa per sballettare. A questo giro, siccome ci sono degli ospiti internazionali, si inizia dal pomeriggio e si prosegue poi via via con cena a base di panini e poi sballettate e hip hop. Tutte le informazioni anche qui, come per la serata precedente di venerdì 1 dicembre, sul sito del Next Emerson, csaxemerson.it. Mi sbaglio sempre, netto it, madonna, cioè vabbè, sono una capra, lo scriverò comunque. E poi sempre sabato 2 dicembre polveriera, la polveriera di nuovo dalle 17.30, chiude alle 23.30, dibattito su immigrazione, profughi e lotta per la casa, cura del movimento di lotta per la casa, più una periscena e live a seguire degli Etrurians. Ultimo appuntamento della settimana wombattesca, almeno per quanto mi riguarda, che vado da mercoledì a mercoledì, domenica 3 dicembre, sempre alla polveriera, Sunday Vinyl Session numero 2 più aperitivo, il tutto dalle 18 alle 22.30. Anche qui vi rimando al sito della polveriera, cercatelo su Google o Giuggiole, come dicevate prima. E questo è quanto, sono gli appuntamenti della settimana. Fitti, è vero, guardate, che a casa ve li siete segnati perché erano diversi, erano tanti, insomma, cioè se no veramente calendario fitto. E se no anche perché come vi si fa a stanare dalle vostre tane, che è vero che fa freddo, ma insomma, cioè poi in realtà quando si balla ci si diverte, sì, non fa più freddo. Quindi questi erano gli appuntamenti, possiamo proseguire con la nostra scaletta, con la coscienza a posto, che abbiamo detto tutto, giusto? Sì, perché allora eravamo da Miles Davis, che vabbè ci ha deliziato con tutte le sue cosette strane, nuove, innovative, e adesso però facciamo un balzo un po' in avanti di quasi 10 anni dopo, perché siamo nel 1956, a Basin Street c'è Clifford Brown e Max Roach. Giusto? E questa l'avevo scelta innanzitutto perché ovviamente è registrato al Basin Street East, che era un altro storico locale della 52esima, che ritornando a appunto il discorso che si faceva prima di New Orleans, Basin Street era la via del jazz del quartiere di Storyville di New Orleans, e quindi un cerchio che si chiude e via. Come era stato chiamato appunto questo locale della 52esima, per ricordare gli antichi fasti di New Orleans. Ma appunto perché in questo quintetto di Clifford Brown e Max Roach, 56, il bebop stava già cominciando andare verso quella che poi sarà la sua evoluzione da lì a poco. Infatti il free jazz è nato nel 59-60 con Ornette Coleman, ma il cambiamento del bebop, che non l'ha fatto più essere bebop, era stato proprio un diverso stile di improvvisazione, ovvero il bebop era come se fosse un vicolo cieco per i musicisti, perché con quel tipo di scrittura lì era perfetto per esaltare le doti virtuosistiche degli strumentisti. Però proprio per questo motivo qui, una volta accelerato a dismisura i tempi, i cambiamenti, le variazioni degli accordi, ti ritrovavi in un punto di non ritorno, dove cioè, era virtuosismo ai massimi livelli, e quindi dovevano per forza di cose andare a trovare un nuovo modo di suonare per andare da qualche altra parte, e quello sarà un po' il cambiamento che porterà al free jazz, ma è fondamentalmente un cambio di improvvisazione che invece di essere tematica come il bebop diventerà modale come nella musica indiana. Infatti gli artisti del nuovo jazz si rifanno all'improvvisazione modale, Miles Davis tanto per nominarne uno, John Coltrane appunto, il già citato Ornette Coleman, che poi sarà quello che all'inizio del 1960 darà il nome alla corrente dopo del jazz, ovvero il free jazz, che già con il suo disco del 1959 The Shape of the Jazz Newcomb si vedrà che andrà verso quella definizione, e all'inizio del 1960 con il suo free jazz sarà proprio il crack del jazz, anche solo perché pensare che quel disco è un disco suonato da due quartetti. Cioè non è un ottetto, sono due quartetti. E sempre suonano, meno catene, diciamo. Esatto, e è improvvisazione totale. Però per ritornare appunto a Clifford Brown e Max Roach, due grandissimi amici, due grandissimi del bebop e della musica del jazz in generale, purtroppo Clifford Brown ci ha lasciato molto presto, trombettista sopraffino, quasi si può dire ai livelli di Miles Davis. Invece Max Roach, anche se purtroppo non è andato molto più avanti dell'amico Clifford Brown, però ha comunque potuto dire ancora abbastanza la sua nel mondo della musica, e non solo, perché ha dato anche un contributo molto forte alla lotta per i diritti civili con la sua suite Freedom Now, che sarà appunto il disco, ora adesso non mi ricordo l'anno esatto, però anche quello è stato sicuramente uno dei dischi più di protesta del mondo jazz verso il mondo dei bianchi. E questa appunto è una registrazione al Basin Street East, che tra l'altro era stato famoso perché per questo passaggio di testimone, perché una delle serate più famose del Basin Street East era stato appunto una gara tra il sestetto di Benny Goodman, che rappresentava diciamo un po' il passato, e il quintetto di Max Roach e Clifford Brown, che ci andremo a sentire adesso, con ovviamente Clifford Brown alla tromba, Max Roach alla batteria, niente po' di meno che Sonny Rollins al sax tenore, e George Morrow al contrabbasso, e Richie Powell al piano, Richie Powell, fratello minore di Bud Powell. Ho chiesto a Giugiole ed era il 1960 l'anno di Freedom Now. No, Sweet. No, così. Dall'altro per fare la saputella. Lo stesso anno appunto di Free Jazz. E questo pezzo che ci andremo a sentire, What Is This Thing Called Love, è uno standard di Cole Porter che ci riporta appunto a quello che dicevi prima su Broadway, perché Cole Porter è uno dei cinque più famosi compositori di musical. Madonna, guarda, della storia. Ma che nessi che trovi! Un altro, appunto, dei grandi compositori di musical, si può ricordare George Gershwin. E comunque, per dirvi, le prime due più famose di Cole Porter che mi vengono in mente sono Night and Day, che poi è diventato uno standard, e anche I got you under my skin, cantata da Franco Sinutri. Sì, lui, la Nutria. E per dirvi le prime due più famose di Cole Porter. E appunto, questo è What Is This Thing Called Love, bene, di Cole Porter, suonata dal quintetto di Clifford Brown e Max Roach. Sentiamocelo. 1956, registrato al Basin Street East, la 52esima. Thank you. ecco, potevo andare avanti tipo anche per altri 20 minuti per quello che mi riguarda, in effetti. Serenamente proprio. Ma grande sì. Pezzo, grande quintetto, già si sente che il bebop classico che abbiamo sentito fino adesso stava andando... Sì. Stava prendendo una direzione po' diversa, sì. Ecco, una strada... Sì, è vero, assolutamente. E ora, come direbbero i Monty Python, qualcosa di completamente diverso, perché ci eravamo lasciati andare troppo sul jazz, allora abbiamo detto, vabbè, ma infiliamoci anche roba che non c'entra un cazzo, visto che abbiamo aperto con Billy Joel, voglio dire, possiamo spaziare. Sulla 52esima, appunto, hanno, si sono interfacciati, si sono buttati lì un sacco di artisti di cui vi abbiamo parlato lungamente, e il nesso è veramente, senza quasi farlo apposta, preciso con il pezzo precedente, perché adesso andiamo a parlare di Broadway, dei musical. Perché la 52esima è fondamentale. Era giusto la strada dietro, eh? Ma sì, ma infatti si vedeva. Io a un certo punto dicevo, ma mi starò sbagliando. Io non è che ne so particolarmente, insomma, stata io a New York, che ne so di cosa sto dicendo. E dicevo, ma Broadway, ma eppure. E invece sì, Broadway era dietro. Quindi effettivamente, insomma, era lì. E quindi quando si dice debutto a Broadway, non è che proprio era il quartiere. Cioè, magari va bene anche la strada dietro, cioè... Sarei curioso di guardare tipo su Maps la distanza a piedi tra Broadway Street e la 52esima, per rendermi conto appunto. Sì, la definizione di dietro l'angolo lì è un po' dilatata, come dire, sì. Però vabbè, insomma, era lì vicino, anche perché insomma si parlava di altri quartieri, probabilmente sì, erano... come il mio amico americano che fa, no, dai, è qui. 300 chilometri. Oh, Dio buono, tu sei arrivato. Quant'è? 3 ore? Io fa conto come... come Roma. Sì. Ma è vicino da casa tua. Ma normale, 16 ore in macchina. Vabbè, dai, si fa. Poteva essere peggio. Sì, no, cioè delle dimensioni e delle tempistiche un attimino diverse. Eh sì, e quindi il musical in realtà poi è lì di casa anche sulla 52esima, come ci dimostra ad esempio questo pezzo che vi andiamo a far sentire, che è tratto, il pezzo si intitola Sing Happy, ed è tratto da Flora the Red Menace, la minaccia rossa, che insomma da lì ci potrebbe venire in mente un sacco di cose, maccartismo eccetera, ma non credo che fosse un riferimento a quello. Comunque sia, è il musical che nel 65 ha visto debuttare per Broadway al Alvin Theater, appunto sulla 52esima, ha visto debuttare proprio Liza Minnelli. E Liza Minnelli, che tra l'altro aveva 19 anni all'epoca, quindi una pischella, grande successo, era la prima volta che si esibiva, grande successo. E lo sentirete, ha una voce ancora piuttosto aspra, non proprio matura, si sente che è ancora un po' così, ancora una giovinetta, una pischella, sì, però cioè, che ancora insomma, doveva sviluppare il suo stile vocale, però insomma dice c'è degli indizi, ecco. Diciamo, si capisce che è lei, diciamo. È lei, c'ha già tutta la grinta, il belting poi, che è quella tecnica vocale che sta dietro al musical, che poi è stato sviluppato da un po' tutti dopo e che adesso poi sta spopolando un sacco. E insomma, Liza Minnelli gliene dava secche. Il teatro invece, l'Alvin Theater, che all'inizio si chiamava così, poi ha cambiato nome, insomma, ha visto vicissitudini varie. Tra l'altro, cosa che non abbiamo detto, ma tutti questi luoghi che vi abbiamo citato durante questa trasmissione, purtroppo penso che la maggior parte non esistono più, sono stati trasformati in banche. Sì, ormai con la riqualificazione urbana. Così, sì. Tipica americana di quando un posto smette di produrre soldi. Esatto. E allora è stato completamente ridestinato, diciamo, la 52esima strada. Se ci andate adesso, probabilmente troverete solo ed esclusivamente banche e centri commerciali, probabilmente. Sì, infatti è un po' triste, perché di fatto la 52esima che vi stiamo raccontando è una 52esima di fantasmi, una 52esima che probabilmente non esiste più, se non tramite qualche traccia che ogni tanto si trova ancora. E forse lasciata più così per qualche turista, sì, che dice per romanticheria. Anche perché poi, appunto, i locali locali jazz si sono trasferiti nel non so quanto relativamente vicino Greenwich Village. Sì. Mi viene in mente che poi ha visto altre rivoluzioni, tantissime altre rivoluzioni via. Al Greenwich Village, già il già citato e ricordato Minton's Playhouse, diciamo un po' la culla dello scantinato di dove è nato il bebop, ma anche il Five Spot, il Jazz Gallery, il Village Gate, e nonché il più longevo di tutti e uno dei più famosi sicuramente il Village Vanguard, che era lì appunto al Greenwich Village, che anche questi sono tutti luoghi che hanno contribuito alla storia del jazz, e non solo. E hanno traslocato in qualche maniera da dove erano prima, in qualche modo. E sì, e quindi l'Alvin Theater di cui parlavamo, appunto, è uno di questi teatri che poi sono stati chiusi o comunque hanno visto fasi alterne. E era un teatro che, oltre a questo Flora the Red Menace che vi citavamo, in realtà ha visto debuttare moltissimi musical, tanto per dirne uno, un banalissimo Porgy and Bess di Gershwin nel 1935. Giusto per dirne una a caso. Così, una robetta. Ah. Anche se poi, tra l'altro, il vero debutto in realtà era stato a Boston, sempre lo stesso anno. Però, insomma, quello che viene è un po' in dubbio tra quale vince tra i due, ma insomma. È l'eterna battaglia tra bostoniani e New York. Tra l'altro, sì. Sì, e invece Flora the Red Menace, da cui traiamo questo pezzo di Liza Minnelli, scritto da la musica scritta da John Kander e i testi da Fred Hebb, che erano una coppia che poi dopo hanno iniziato a lavorare insieme e hanno dato vita poi anni dopo a altri successi di Broadway e di Hollywood come Cabaret e Chicago. Anche lì, evidentemente, Liza Minnelli cioè continuava ad avere lo zampino. E produzione questa del 1965, piuttosto fortunata, ebbe un gran successo. La stessa Liza Minnelli, come appunto dicevo prima apparizione, eppure già da subito ebbe un grande successo a soli 19 anni. E tanto per darvi l'idea di quello che si diceva prima, di la differenza tra la star e l'operaio del tempo, nel tempo in cui andò in scena questo musical, tra il maggio del 1965 e il luglio dello stesso anno, furono messe in scena 87 rappresentazioni, cioè 87 repliche, quindi insomma gliene davano pure loro. E ora sentite anche un po' con che vocetta le mettevano poi in atto. E questa è Sing Happy, tratto appunto da Flora the Red Menace di Liza Minnelli. Sing me a happy song about robins in spring. Sing me a happy song with a happy ending, some cheerful rondelay about catching the ring. Sing happy, sing me a sonnet all about rolling in gold, some peppy melody about nothing with phrases saying you're out in the cold. Sing. Che con questo vi ha sturato le orecchie. Vabbè, la Liza. La sfondate. Cosa ti piace del belting, di sfondare le orecchie? Questo era Sing Happy, Liza Minnelli, la nostra cara Liza. E con il prossimo pezzo vi salutiamo, anche perché siamo andati lunghi, ma d'altra parte c'erano tantissime cose da dire e da raccontarvi, insomma, spero che non ce ne vogliate. Il prossimo pezzo con cui cullarvi e mandarvi a dormire beatamente sono i Portishead. Quindi tutt'altro, facciamo un salto di circa 30 anni più o meno, un po' così, perché... Grandi, sì. Portishead, tra l'altro, ne parlavamo prima. Oh, mamma mia, ma infatti, ma guarda, ma questa puntata tutta bella musica, non abbiamo... Oddio, io Billy Joel mi sta un po' qui, però vabbè, però, vabbè, però non c'è di peggio. Povero Billy, dai. Alla fine, infatti, c'è di peggio, assolutamente. Ha una sua dignità, sì. Anni 80, anche vero, Billy Joel. È vero. E quindi no, difendiamocela tutta in toto sta puntata, proprio una bella musica. E i Portishead, insomma, direi che concludono degnamente, perché io in maniera molto ingenua i Portishead me li sono divorata da pischella. Stavamo parlando, sì, appunto prima. Anni appunto persi di altri di amore incondizionato verso il trip hop proveniente da Bristol. Mamma mia, che bellezza. E però ho sempre visto questo album, che io peraltro avevo, mi sa che c'avevo la cassettina, Roseland, Live at the Roseland. Io, ma bello, Live at the Roseland, ma so un cazzo da dove veniva. Boh, è stato fatto ovviamente live, registrato live a Roseland Ballroom sulla 52esima. Invece pensavo fosse un localaccio infame sui porti di Bristol. Sì, a casa di uno, non lo so, magari era, non lo so, un concert house a casa di una tizia. Invece no, era a Roseland Ballroom, ennesimo locale teatro sulla 52esima. Live registrato nel 1998, che fu peraltro rilasciato proprio nello stesso anno per la Go Disc di Londra, e registrato anche in VHS lo stesso anno. Infatti poi si trova, anche se andate su YouTube trovate tutta la registrazione live, e qualche anno dopo ne è seguita una versione in DVD, insomma un po' più tecnologicamente avanzata. Tra l'altro, ultima curiosità che vi volevo dire è che lo sentirete, insomma, se non lo sapete già, è un album che è stato registrato e suonato dal vivo insieme, oltre ai Portishead in formazione classica, insieme a un'orchestra. E nella registrazione audio, nel disco audio, non c'è nessun credits per questa orchestra, però non c'è. Ma nella versione video, invece, ci sono i crediti per la New York Philharmonic Orchestra. Ah, si erano scordati di dare giusto un paio di crediti a gente così. L'ho trovata così. No, scusa, può venire un attimo, perché c'ho da fare un concerto, mi serviva... Può venire te, per favore. Però è peggio di così, perché purtroppo nessuno di quei musicisti era un membro della Philharmonic. Cioè, quindi hanno messo un po' a caso. Non si sa bene. Ma te metti quella lì. Sì, dai. Quella è famosa, la conosco tutti. Invece, poracci, che poi non è che fanno schifo, insomma, sono dei signori musicisti, però, non si è capito, hanno fatto un po' un casino. Devo mettere, cioè, la pompa con chi sono? Con London Philharmonic, voglio dire. E invece no, porini, non era loro. Vabbè, è comunque andata così. Il conservatorio dietro casa. Anche secondo me. Però vabbè, porini, hanno fatto il loro. Li ringraziamo lo stesso, appunto. Visto che manco ci sono sui credits del disco, almeno. Poi che la cosa fondamentale sono i Portishead. Ma infatti, ma che ci frega a noi della... Quello dubbi non ci sono. Esatto. Quindi vi lasciamo da questo live. Ho tratto Short Times, giusto così, perché mi piace. E vi lasciamo con questa versione un po' più veloce del normale. Vi lasciamo a dormire, a fare quello che volete, alla vostra insonnia. Fate che vi pare. Sì, divertitevi o no, dormite, riposatevi. Fate a modino, mi raccomando. Sempre a modino, e mi raccomando, ci riascoltiamo. Allora, mercoledì prossimo no, ve lo posso preannunciare. Mercoledì prossimo la puntata di Slick Chick Zompa. E ci prendiamo una pausa, ma ci rivediamo tra due mercoledì, ovvero mercoledì il 13 dicembre, quindi saremo già tutti un po' natalizi, così. E poi però vi lascio comunque in compagnia dei programmi di Radio Wombat, quindi rimanete sempre sintonizzati qui su Radio Wombat. E ringrazio ovviamente Dalai Lama come sempre, come ho già detto. E ringrazio Bloody Mary ovviamente per l'ospitalità e per avergli occupato ovviamente senza autorizzazione la trasmissione. È chiaro, assolutamente. Quindi tanta risa, ilarità e strette di mano e ci risentiamo tra un paio di mercoledì. Ciao ciao! Ciao! Wombat. Radio Wombat.